cercar, che al fin, se lo saprai, più di me piangerai. Dimmi che offende. Il furioso Orlando ha distrutto il mio albergo e... perfida falerina in meraviglia angelica.